Hai visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Secondo lei in questo momento il problema del movimento è per certi versi Beppe Grillo? Direi di sì, perché noi il lavoro lo stiamo facendo, stiamo cercando di lavoriamo tantissimo e anche questo non viene percepito all'esterno. E invece di incoraggiarci, lui scrivendo questi post ci mette in cattiva luce anche al di fuori del movimento. Bene ripetere, caro Parenzo, che ovviamente molti parlano di questo Movimento 5 Stelle che esplode, no? Con queste uscite, ma soprattutto con le frasi pronunciate dalla senatrice Adele Gambaro che se la prende con Grillo, e Grillo pochi istanti fa, dopo aver detto vabbè ma il problema sono io, ci ha messo poco più di un'ora a dire a questa senatrice che se ne deve andare, deve uscire dal Movimento 5 Stelle, la signora Gambaro, Adele Gambaro. Il problema è Grillo, l'elettorato ci ha abbandonato. Beh, l'elettorato ha dato un segnale molto significativo. Alle ultime politiche abbiamo preso una percentuale del 25% e adesso praticamente ci hanno abbandonato. Paghiamo i toni di Grillo. Io credo che stiamo pagando i toni di Beppe Grillo, insomma la sua comunicazione sbagliata che viene dal blog, questi post che lui manda un po' minacciosi e soprattutto l'ultimo che ha fatto sul Parlamento. E mi chiedo come faccia ad attaccare il Parlamento lui che in Parlamento non è mai venuto. Noi siamo qui da 3 mesi e non l'abbiamo mai visto. È bene ricordare, caro Parenzo, è bene ricordare che la signora Gambaro, la senatrice Adele Gambaro, di cui solamente gli addetti ai lavori conoscono nome e cognome, la senatrice Adele Gambaro, solamente gli addetti ai lavori conoscono nome e cognome, non conta assolutamente nulla. È lì in Parlamento, al Senato, solamente perché c'è un signore, un comico, un pazzoide, uno scapestrato, come dici te, una sorta di tribuno che si chiama Beppe Grillo, perché altrimenti questa signora Gambaro non la votavano nemmeno i parenti, come tanti altri nominati in questo Parlamento. Diciamo in particolare questi qua dei 5 Stelle, però, cioè senza Grillo, che adesso lei critica dicendo sono i suoi post che ci mettono in difficoltà, no, sarebbero zero polvere. Una persona normale come te, ma siccome tu non sei una persona normale, sì, ovvio sì, che non puoi fare lui, questo ragionamento. È arrivato lui invece. In una giornata come quella di oggi, in cui Grillo procede con nuove epurazioni in stile con nuove purghe stile staliniano. Sì, vabbè, tutti. In cui c'è tutti la i luoghi comuni, conti, dai, luoghi in comuni cui c'è di Parenzo. La resa dei conti dentro il movimento. Partiamo con i luoghi comuni di Parenzo, su, siccome dai. Siccome Grillo è oggi un leader politico e non è più un comico. Allora siccome è un leader politico, vabbè, qualcuno avrà la responsabilità di questa sconfitta o no? Vabbè, hai detto una banalità come al solito. Cioè, è un leader politico o no? Vabbè, ma che vuol dire? Ma non, se non sai che dire, è meglio che te stai zitto. No, ma è un leader politico. Ma non vuol dire niente, ma come ha perso le elezioni amministrative? Ma di cosa parli? Di cosa ha perso parli? Le elezioni amministrative o no? Senti, il problema è molto semplice. Torco Pomezzi ha perso le elezioni la amministrative. La senatrice Gambaro senza Grillo sarebbe polvere, sarebbe zero. Questa è l'unica discussione che si può fare. Secondo te? No, secondo me sì. Io dico semplicemente che Grillo oggi, il leader politico Grillo, ha perso le elezioni. Vabbè, c'è tempo, dai. E quindi c'è la resa dei conti. Smettila di dire stupidaggini, dai. C'è un altro che si chiama Furnari. Si chiama Furnari, che potrebbe uscire. Il movimento imploderà. Imploderà questo movimento? È solo questione di tempo. Non intravedo gli anticorpi per poter andare avanti. Furnari è già uscito, nel gruppo misto. Attenzione. No, l'altro di cui parlava non è lui, si chiama Prodani, che non è un piccolo Prodio, comunque una variabile di una variante di Prodi, si chiama Prodani, il quale dice: qualche uscita di Grillo è un problema. Ma come? Le uscite di Grillo vi hanno portato in Parlamento, dove non sareste entrati nemmeno, cioè nemmeno morti, adesso criticate le uscite di Grillo. Ma Grillo sta diventando un problema per il movimento, vi sta mettendo in difficoltà come parlamentari? Ma io parlo sempre per me, qualche uscita mi ha messo in difficoltà, perché io devo comunque poi, in tanti vengono a chiedere a me conto delle parole di Grillo, riferito ai toni, no? Secondo me bisogna andare a pesare un po' meglio le parole. È tornata a parlare anche Michela Biancofiore, sottosegretaria alla funzione pubblica. Sottosegretaria alla funzione pubblica, la quale dice Berlusconi innanzitutto che è patrimonio dell'UNESCO. Gli mancava questa qua. Ma lui come persona? Sì, sì, ovviamente lui. Come, cioè, non le sue ville. No, patrimonio dell'UNESCO. Berlusconi. Lui. Cioè, lei lo avrebbe forse imbalsamato, no? Ma non, una persona può essere patrimonio dell'UNESCO? Bah, secondo la Biancofiore sì, sentiamo. È stupendo questo. Lei sa che si può candidare patrimonio dell'UNESCO anche le proprietà immateriali, anche i movimenti culturali, lo sa, no? Abbiamo detto non Berlusconi, perché non si può, ma il berlusconismo si potrebbe. Sì, io farei tu, purtroppo, come ha detto lei, non si può fare. Io più che del berlusconismo lo farei di Berlusconi, perché credo che non ci sia un uomo pari a lui nella storia dei tempi da molto tempo. Però la Biancofiore non dice solo questo, dice anche che quando vado al supermercato la gente non è delusa da Berlusconi, ma dal partito. Senti, sempre il supermercato. Ma io vado a fare la spesa da sola, senza la scorta, al supermercato, sente qual è il pensiero della gente. La gente è delusa magari dal partito, che non riconosce nella figura di Silvio Berlusconi, ma non da Silvio Berlusconi, che per fortuna ancora oggi è percepito sempre come il nuovo che avanza. Per fortuna, perché, però, un grande limite, la stampa dice il PDL. Ma siamo con una delle grandi sorprese di questa tornata elettorale, caro Parenzo, una delle grandissime sorprese. Ma tu lo sai chi è stato eletto sindaco di Carovigno in provincia di Brindisi? Carovigno? Sì, ma tu che cazzo ne sai? Ma tu cosa ne vuoi sapere? Ma non sai nulla, non Carovigno, sai niente. No, ma perché non studi una volta tanto? Una volta tanto, durante la giornata, mettiti lì e guarda un po' di notizie, quelle che sono le notizie della giornata, le cose interessanti, le Sto cose lavorando importanti. Lavorando alla guerra dei mondi. Ma tu stai, ma perché? Là, di che ci si occupa? Di mio nonno in carriola? Non guerra ho capito. Dei mondi, su Rai 3, venerdì sera. Ma ce ne sbattiamo i coglioni 21. Di questa pubblicità. Dallo scandalo Hard alla poltrona di sindaco, così titolano i giornali. Buonasera Cosimo Mele, come sta? Buonasera, sto bene, grazie. Tutto bene? Signor Mele. Bene, bene, grazie. Ma lo sa cosa ha scritto oggi la signora, ieri, la signora Vladimir Luxuria? Cosa ha scritto? Non lo so. Se scandali a base di cocaina sono con donne, puoi sperare ancora di diventare sindaco. E invece quando sono con i trans no. Ma è cattivella questa signora Luxuria, eh? Ma io ho avuto il piacere di stare in Parlamento con lei, tutta questa cattiveria non la vedevo. Se questo pensa lussuria, pensa cosa potrei scrivere io su lussuria, potrei scrivere un libro. Cioè, in che senso? Mi scusi, signor Mele. Ho capito, se lussuria si permette di parlare di moralità, mi sembra difficile di capire dove andare in questo paese. No, vabbè, d'accordo, ma lei che libro potrebbe scrivere su lussuria? Che esperienza ha avuto con la signora Lussuria? Perché non credo che moralmente sia una persona ineccepibile. No, e che ha fatto di strano? Non lo so, guardi, lei fa il giornalista, io non dico che lo devo scoprire io. No, guardi, una volta si diceva, ma io non ho nulla contro di lei, Mele, io sto... No, ho capito. Le sto riferendo di una cosa che ha scritto la signora Lussuria. Capito. Ma siccome lei il suo mestiere lo fa bene e deve dire quello che non mi ricordo che una volta confessò di avere frequentato, diciamo, in marciapiede la signora Lussuria, cioè di essersi prostituita. Beh, ma su questo è a questo che si riferisce oppure a una sua esperienza di parlamentare? Che ne so, che faceva in Parlamento? No, nessuna esperienza di parlamentare, mi riferivo proprio a questo. Lei si riferiva a questo, non può darmi lezioni di moralità, dice lei, no? Assolutamente no. Tu bisogna chiamarlo sindaco adesso. Beh sì, certo, Carovigno. Sindaco di Carovigno, in provincia di Brindisi. Sì. Dobbiamo chiamarlo sindaco. Meraviglioso, bellissimo, sul mare, con spiagge, sole, storia, cose bellissime a Carovigno. Senta. Vi ospito per venire a visitare. Beh, ma noi siamo pronti lì, siamo pronti. Allora. Siamo pronti però anche... siamo un po' libertini, signor sindaco. Esatto, Mele. Noi siamo di base siamo dei libertini. Ognuno nella stanza a letto fa quello che vuole. Lei anche un po' libertino o no? Beh sì, certamente. No, chiedo. Era libertino forse, no? Se libertino vuol dire subire il fascino femminile, sono libertino. È così, bravo, ma queste cose vanno dette, cioè per carità, poi... Certo, non sono un santo. Mica è un delitto. Sono cattolico, ma non santo. Bravo, ma mica è un delitto, poi, no, la famosa gnocca, quella che si dice la gnocca, non è un delitto, no, Mele? O sbaglio? Non mi sembra. Non è ancora un delitto, non c'è dubbio. Poi, lei ha ancora degli strascichi giudiziari per la storia della... Sì, sì. Però sì, vabbè, ma quelli noi, sai... Il festino luci rosse, che è storia. Come, scusi? Li sto affrontando con serenità. Ah beh, certo, ma... È sicuro di essere assolutamente con la coscienza pulita, di essere una persona per bene. Ma questa signora come si chiama? Non me lo ricordo più. Glielo dico io, la Zenobi. Ah, Zenobi, sì, detta Pocahontas, so che lei ha pure denunciato, no? Tra l'altro, ha pure denunciato. Sì. Ma è vero che lei la voleva ricattare, secondo lei, ovviamente, no? Non è vero, c'è una registrazione. Cioè la voleva ricattare, nel senso, dico tutto, se per non dire tutto voleva un posto, non so dove, alla Rai, a me. Non per non dire tutto, lei ha iniziato questo percorso per ricattare, sì. Ai fini di estorsione il tutto, dall'inizio alla fine. Però scusi, signor Mele, perché, le posso fare una domanda? Noi siamo sempre piuttosto espliciti. Lei si è pentito di essere andato a prostitute? Guardi, sicuramente non è la mia abitudine, stando a Roma probabilmente quando ti trovi in determinate occasioni non ti rendi conto neanche di quello che fai. Ma cioè Roma, lei dice, la città tentacolare, no? Tentacolarissima. Roma è un disastro, cioè effettivamente, beh, guardi che le prostitute esistono anche da quelle parti lì a Carovigno. No, credo, questo paese... A questo paese meno male non ce ne sono. Cioè non ci sono prostitute a Carovigno, dai Mele, non ci credo, su, dai. Non ci posso credere che non ci sono. Ma io non sapevo che fosse una prostituta. Poi ho saputo perché sono stato invitato da un amico. Sì. Sono stato sicuramente ingenuo, però voglio dire, ne abbiamo fatto un caso nazionale. Vabbè, lo sa. Nazionale, ne abbiamo scritto per un anno su questa storia. Lo so. Però questo non le ha impedito di diventare sindaco. Questo è interessante come cosa, no? Cioè no, qualcuno si è chiesto sindaco in una situazione dove Davide ha vinto contro Golia. Tra l'altro, un senatore del PDL, un consigliere regionale del PDL, un'amministrazione intera. Questo è proprio per questo. Mi viene da domandare, caro sindaco, ma i suoi cittadini l'hanno eletta sindaco proprio perché lei ha avuto quelle esperienze oppure perché ha dimenticato tutto? Mi hanno eletto sindaco perché questa città ci vivo, ci sono nato, mi conoscono e sanno perfettamente con chi hanno a che fare. Ho fatto politica nel passato, certo. Ho dato sempre delle risposte al territorio, sì. E la gente si è ricordata. Va bene, traffico, torniamo subito con Cosimo Mele, sindaco di Carovigno, grandissimo. La Zanzara. No me molesta el mosquito. No me molesta el mosquito. No me molesta el mosquito. Why don't you go home? No me molesta el mosquito. Siamo qui in pista con la Zanzara 800 24 00 24. E insieme, caro Parenzo, collegato, ma come al solito totalmente privo di conoscenza, come dire, totalmente ignorante, però questa non è una novità, David Parenzo da Roma, Cosimo Mele, sindaco di Carovigno in provincia di Brindisi, che è tornato clamorosamente alla ribalta. Caro Mele, lei se ne fotterà, ma su Twitter fioccano i doppi sensi, no? Lei è tornato in pista, eccetera, eccetera. Però diciamolo subito. Lei non... Ma perché i media mi hanno fatto apparire per quello che non sono. Cioè, come un cocainomane. Però allora diciamo. No, ma voglio capire dal signor Mele. No, diciamo, facciamo la domanda definitiva a Mele, perché io ci tengo molto. Lei ha mai fatto uso di cocaina? Diciamolo subito. Assolutamente no. Oh, diciamolo, diciamolo. Però lei non ha mai fatto uso di cocaina. Scusi, ma ci sono dei certificati sì. di, in giudizio, quindi però a prescindere da questo, sa, l'altro giorno da noi Michiche ha detto: io ho fatto uso di cocaina in gioventù, sono stato cocainomane, adesso non più, ha fatto una grande conferenza. Sono problemi suoi. Per carità, ma infatti nessuno che c'è, Parenzo, che vuoi chiedere? Possiamo dire uso di cocaina no, ma uso plurimo di prostitute in un contesto di mucchio, quello sì, e anche poco male, possiamo dire. Beh, io non capisco queste domande. Ma noi siamo... No, il mucchio, voglio dire questo, veramente detto guardi, con rispetto. Guardi, a me piacciono le donne e soprattutto le donne diciamo che fanno sesso in maniera normalissima. Normale. Ma no, l'uno contro uno o l'uno contro tre, ad esempio, perché anche quella è una modalità me ineccepibile. No. Ma guardi, capisco che io, che parlando con me voi pensate a tutto di più. No, no, un tradizionale. Ma no, ma assolutamente, no, ma lei è un tradizionale. Ma no, ma guardi, noi non pensiamo mai nulla di nulla. Niente. È che noi siamo un po' perversi, ha capito? Siamo no, noi, beh, noi stessi. Ecco, capito. Ma guardi, dobbiamo, che non c'è niente. Dobbiamo scherzare sulla perversione, per scherziamo. No, ma no. Senta, no, però è interessante mai fatto questo. Sesso con più persone, questo volevo capire. Ma vabbè, allora chiedilo di nuovo, avanti. No, questo volevo capire. Sì, ha mai fatto sesso con più persone, signor Mele? Preferisco farlo con una sola persona. Oh, ecco, benissimo. Ti ricordi, Parenzo, che all'epoca l'ex segretario dell'UDC Cesa disse che, non so se sia ancora segretario, può darsi di no, che Roma è piena di tentazioni, no? Cioè, e dunque bisognerebbe addirittura aumentare lo stipendio per il ricongiungimento familiare, una cosa pazzesca. Comunque, diciamo che ha fatto un autogol clamoroso. Ma Casini l'ha abbandonata all'epoca? Cioè, si sente un po' abbandonato da Casini, lei, Mele? Fu scaricato da tutto il partito, diciamo la verità. Ma io ero l'anello debole della politica. Io cioè, non... Anche loro andavano a donne, diciamola tutta. No, no, sono fatti loro, guarda. Beh, non mi dica che lei era l'unico a frequentare alberghi, prostitute varie. Non ci credo, dai, su, o no? Guardi, non sono più indicato per parlare di... No, ma voglio dire, io penso che lei non fosse l'unico, no? Nel Parlamento era pieno così, o sbaglio? Come è normale? Nelle proprie stanze da letto ognuno fa che cosa gli piace fare. No. Mettete, beh, sì, No, ma sì, ma certo, ma non c'è dubbio. Ma chi ha detto il contrario? Dei Casini o altri andavano a donne? No, Casini, io dicevo in generale, i politici in Parlamento, l'UDC. Ma lo so io, lo sa lei, lo sa tutto il mondo. No, non lo so io, ma lo dica in lei. In Italia e tutto il mondo... Ogni tanto si fanno qualche, diciamo, scappatella, ecco, chiamiamola così. Si fanno, anche i parlamentari le fanno, vabbè, ma è normale, questo è normalissimo. Ma guarda che non sono i politici, cioè, se lo fa il politico è un dramma, ma lo fanno gli ingegneri, lo fanno i giornalisti, lo fanno... I giornalisti tantissimo poi. Beh, capito, allora. Secondo me Mele ha una voglia matta però di fare un'altra cosa oltre al sindaco di Carovigno, lo sai, Parenzo? Secondo me la voglia matta che ha Mele è quella di tornare prima o poi in Parlamento. Secondo me. Guarda, le posso assicurare che non è una mia voglia matta. No? No. Sicuramente, diciamo, un aspetto della vita. No, ma lei vorrebbe tornare in Parlamento? Ma io le ho detto che per 5 anni io sono qui a fare il sindaco di Carovigno, facendo volare... Vabbè, è quello, vediamo. Senta, dobbiamo quasi concludere, ma lei la legalizzerebbe la prostituzione? Assolutamente no. No, niente? Come no? Ma no, come no, scusi, signor Mele. Ma una bella, no, una bella anzi, dovrebbe essere una bella legalizzazione, con tutto fila. Regolarizzato, le tasse e tutto, no? Vabbè. Ma guardi che in Italia c'è il Papa, non credo che si possa legalizzare. No, ma lei che ne pensa? Lei la legalizzerebbe sì o no? Io personalmente la potrei pensare di legalizzarla, ma non. No, ma lei, quello volevo sapere, ma lei è d'accordo con la legalizzazione, cioè con la riapertura delle case chiuse, fare una roba del genere o no? Sì, penso che legalizzare la prostituzione potrebbe essere diciamo, un problema in meno che questo paese potrebbe affrontare, ma non è il problema del paese. No, quello no, per carità. Le faccio tanti auguri, signor Mele. Grazie per l'ospitalità. Sindaco di Carovigno. Io nel frattempo vi invito a Carovigno. Come perché no? È un posto magico, è un posto straordinario, una convivenza straordinaria. Veniamo, vogliamo belle, però fare qualche storia, festino perché male. Noi siamo molto libertini, festini per tutti. A tra poco, Giornale Radio. La Zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ma la vogliamo risentire questa senatrice, chiamiamola così, Parenzo. Senatrice dei 5 Stelle, Adele Gambaro. Adele Gambaro. Ricordo questa signora Adele Gambaro, di cui le persone normali non sanno assolutamente nulla. Cioè sconoscono l'esistenza, non sarebbe lì in quel posto al Senato se non ci fosse un pazzoide che si chiama Grillo. Come tutti gli altri? No, è molto diverso. È come molto... chiunque no. Altro di nominato. Sì, uguale. È vero, il sistema è uguale, ma se non ci fosse Grillo. Scelti da 5 persone. Sì, 5. Ma se non ci fosse Grillo, questa signora qui sarebbe polvere. Sarebbe zero. Polvere. Lo stesso dice la Biancofiore del PDL rispetto ai suoi molti colleghi, cioè, se non ci fosse Berlusconi, quindi è uguale. Vuoi scommettere che se ci scontriamo in un collegio io e la signora Gambaro vinco io? Vabbè, ma che c'entra? Ma quello per forza, lei è il direttore. No, ma che c'entra? Ma lascia perdere, ma questo ma per questo, dirti, no? Ma questo cosa c'è? Vabbè, cosa fammela c'entra? Sentire, però fammela sentire ma perché. Ma guarda, riguarda qualunque. Allora, gli stessi post che lei stai zitto un attimo. Lei critica gli stessi post di Grillo che l'hanno portata lì. Non è che i post di Grillo prima, cioè le parole di Grillo prima sul blog erano delle parole morbide, così da intellettuale, da filosofo, eccetera. Le parole di Grillo erano violente ed erano diciamo con un certo tono, allo stesso modo, uguale, solo che adesso secondo lei fanno perdere voti. Io credo che stiamo pagando i toni di Beppe Grillo, insomma la sua comunicazione sbagliata che viene dal blog, questi post che lui manda un po' minacciosi e soprattutto l'ultimo che ha fatto sul Parlamento. E mi chiedo come faccia ad attaccare il Parlamento, lui che in Parlamento non è mai venuto. Noi siamo qui da 3 mesi e non l'abbiamo mai visto. Allora, uno è già uscito, uno di quelli che sono già usciti, che si chiama Furnari, il signor Furnari. Hai mai sentito parlare del signor Furnari, tu? David? Hai mai sentito parlare del signor Furnari? Beh, certo, è quello 5 Stelle. No, certo. No, ma l'hai mai sentito nominare prima? Cioè, si è distinto per qualche cosa? Furnari, signor Furnari. Ma non si è distinto per adesso nulla, voglio perché... vedere se intascherà tutti i soldi della diaria e dello stipendio. Voglio vedere. Perché questi due signori, con la scusa dell'Ilva, dicendo sì, il movimento la pensa in maniera diversa sull'Ilva, ma di che stiamo parlando? Con la scusa dell'Ilva sono usciti dai 5 Stelle alla Camera, questo qua. Furnari, sentiamolo, imploderà il movimento. Imploderà questo movimento? È solo questione di tempo, non intravedo gli anticorpi per poter andare avanti. Vuoi scommettere che è il primo titolo del TG3? Beh, sicuro, certo. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il centrosinistra avanti anche in Sicilia. Bianco, sindaco di Catania al primo turno. Marino, il primo provvedimento per Roma, la chiusura al traffico dei fori imperiali. Il crollo dei 5 Stelle, Grillo alla rete, dite se sono io il problema. Poi replica all'attacco della senatrice Gambaro, non vale niente, va espulsa. Il PDL discute sulla sconfitta. Cichito alla Santanchè, no a un rinnovamento calato dall'alto. Il PD, nessuna euforia, ma ora più forti nella coalizione. Napolitano, rispetto e collaborazione verso la Consulta, riforme ineludibili, scandaloso rimettere in discussione il taglio dei tribunali. Vertice di maggioranza, il governo annuncia entro giugno un decreto su economia e fisco. Sull'IMU, Brunetta se la prende con Saccomanni. Nel Savonese, un giovane disoccupato che vive con la madre pensionata, il fratello disabile si lancia dalla finestra e muore, aveva ricevuto lo sfratto esecutivo. E a Istanbul la polizia fa irruzione in piazza Taksim, cuore della protesta contro il governo Erdogan. Un centinaio di feriti, alcuni gravi, decine di avvocati che difendevano i manifestanti, arrestati dai poliziotti. Gentilini prima del ballottaggio. Me ne andrò a Sera Valle perché io sono vitaliese, ma sono seravallese. Vado nella natura a guardare gli alberi, l'acqua e fare l'agricoltore. Perché te ne sei andato? Perché? Perché io voglio ancora sentire quella voce, no? Però qualcuno l'ha pizzicato, eh? Il TG3, oh, sì, credo, eh? Sentilo, sentilo, stupendo, eh? Senti. Lui al telefono è perentorio. Pirini è morto per i giornali, per le televisioni, per tutto. La Lega e il PDL l'hanno sostenuta? Non frega niente la Lega nel PDL. Non l'hanno... Me ne frego alla fascista. Saluti e baci. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Lo sai di chi è questa canzone? Ma come, non è Grande Pupo, certo. Perché te l'ho messa? Perché poi la cosa è controversa, per carità, il sindaco Pisapia qui a Milano vorrebbe mettere, o ha già messo, non lo so, non me ne frega niente perché io mangerò tutti i gelati che voglio dopo mezzanotte, una sorta di ordinanza contro il consumo di certi alimenti in ore notturne, cosa secondo me sacrosanta, ma non sul consumo, bisognerebbe chiudere, beh, lasciamo perdere, è un discorso troppo lungo, però... Come al solito è stata una russa che ha fatto una gazzarra lì con... Ma una gazzarra, è una protesta, una gazzarra, una protesta. Ma tu dici sempre le solite cazzate quando si tratta di la russa. Quando protesta la russa è una gazzarra, quando protesta uno di sinistra è una manifestazione democratica. No, non è vero, la russa alle volte fa delle manifestazioni. Senti, non c'è stata nessuna gazzarra. Non c'è stata nessuna gazzarra. Ma hai visto il filmato? Hanno cantato una canzone, senti. Ha fatto una gazzarra. Senti. Gelato mio, voglio leccare abbracciato con te fino alle tre. Ma poi esiste sta canzone o no? Sentiamo ancora, esiste o no sta canzone? 3, 2, 1, gelato! Crema e cioccolata, crema e cioccolata, crema e cioccolata. Lui che canta crema e cioccolata, certo, crema e cioccolata, l'ex ministro della difesa Ignazio La Russa, cioè crema e cioccolata. Come si è ridotto. Gabriele da Modena, buonasera, 800240024. Gabriele. Buonasera, Cruciani. Buonasera, volevo intervenire in merito alle dichiarazioni della senatrice deputata Gambaro. Sì. Allora, io sono abbastanza d'accordo che un deputato del 5 Stelle, pur non essendo un loro elettore, possa esprimere il proprio giudizio, perché un paragone, c'è anche un figlio quando nasce, subito vede il genitore che ha sempre ragione, poi dopo... Man mano che diventa grande gli dà anche torto, secondo me. Non vedo niente di male. Ma per carità, si possono fare tutte le accuse del mondo, bisogna vedere quali accuse vengono fatte, perché se lei dice che i post di Grillo, quello che scrive Grillo sul Parlamento, danneggia il Movimento 5 Stelle, quello però... cioè i toni di Grillo non sono diversi, ha capito? Cioè non è che lo dice adesso che il Parlamento è maleodorante, prima le diceva di tutti i colori, però prima, siccome si arrivava al successo e siccome queste cose portavano al trionfo, allora Grillo era intoccabile. Adesso invece, quando c'è un minimo di... perdita di consenso, giù addosso a Grillo. Ridicolo. Francesco dalla provincia di Roma. Grazie Gabriele. Francesco. Salve, buonasera signor Cruciani, signor Parenzo. Volevo dire questa cosa qui per il signor Grillo, che se ne caccia via altri due dal Senato fa un grosso favore al PD, perché poi mandano via tutto il governo e rifanno il governo da soli, perché ne manca poco oramai, penso. Dubito che questa operazione, se ne parla da un po' di tempo, di un drappello di senatori che potrebbero in realtà sono fare proprio sull'orlo, insomma. Sì, ho capito, però sarebbe un'operazione politica un po' complicata, devo dire la verità. Poi voglio dire anche quest'altra cosa, basta sta cazzata che dice sempre la Biancofiore e non solo lei, che sono andata al supermercato e mi hanno detto sarà un campione statistico quella gente che si trova, ma secondo lei è un campione statistico? Secondo no, direi di no, però allora, ogni volta lo tirano fuori come se fosse la verità, che è stata è la dimostrazione che c'è ancora un grosso affetto del mondo per, cioè, mi sembra abbastanza una cosa stupida da dire, quindi era così, insomma, non mi volevo dire dal cuore, che è veramente una stronzata questa cosa qua. Va bene, grazie. Angelo, provincia di Bari, buonasera Angelo. Buonasera Giuseppe, buonasera. Che è successo Angelo? Giuseppe, ma sto talmente incazzato Giuseppe, che ormai non ti ascolto nemmeno più tutti i giorni perché mi avete fatto venire l'ulcera. Perché? Che è successo Angelo? Ma io quando vi sento a voi Giuseppe, ma mi viene, sai, dallo stomaco, un sterzo ormai, l'ho spaccato un camion. Addirittura? Ma te voglio dire due cose breve, Giuseppe. Dimmi, caro. Una l'hai detta, quindi non ti rubo il tempo perché l'hai detta. No, ma tu puoi fare quello che vuoi. Quell'infame carogne, quella senatrice, quella carogna, che veramente lei non doveva esistere se non stava Beppe Grillo, mo fa fregarsi, fa papparsi i soldi, ha capito Giuseppe? Ma la prima scusa è buona, hai capito? Grillo. Però così se ne escono e si pappano i soldi, Giuseppe, quello è. Ah, tu dici che è solo una questione di denaro, sì, solo una questione Giuseppe, di quattrini. Quelli erano quattro cane morti, pidocchiosi, che nemmeno lavoravano, hai capito? Papparsi i soldi, perché così funziona in Italia. Ma tu sei grillino, Angelo, hai votato Grillo, sì, tu? Sì, come no, come? Io ma sei votato. Militante anche, sei no, iscritto. No, militante, no, lo voto solamente. E che pensi di, ascoltami. Questa qua che ha detto che Grillo... Ma guarda, non mi fa di parola. No, dimmi Angelo, dimmi. È una baldracca, Giuseppe. Addirittura. Nel senso buono, Giuseppe. Dopo me lo spieghi meglio, intanto abbiamo con noi un attimo, resta lì Angelo sul tuo camion, intanto donna Assunta, buonasera. Buonasera a lei. Come sta, cara io donna? Bene, Assunta. Bene. Senti, è contenta della sconfitta di Alemanno? No, io non sono contenta per niente, sono dispiaciuta, però so che se lo meritavano, no? Ah, se lo meritava secondo lei. Chi non lavora e non produce è normale, lui ha lavorato, però non ha lavorato per quello che volevano, per io dico... Siccome non lo hanno votato, evidentemente Ricchi non l'ha votato, si è sentito in grado di rispondere con il non voto. Però non faccia la adesso quella democristiana, donna Assunta. Ma io non sono democristiana per niente, io sono apolitica. Appunto, dico, non faccia quella sono un po' di... fuori dalla politica. Non faccia quella, insomma, diplomatica. La diplomatica è una cosa, ma la no, democristiana non l'ha esiste. L'ha votato lei Alemanno? Io sì che l'ho votato. Sì, però se l'è meritata la sconfitta, diciamo la verità. Se non lo hanno votato vuol dire che se l'è meritato. Ha fatto un disastro, su, non ha governato la città, signora Assunta, lo dica chiaro. Come faccio a dirlo? No, lo dica appunto, lo dica, con la sua risata sarcastica. Io so che hanno rubato al cimitero, era talmente malmesso il cimitero, che hanno rubato pure la statua di mio marito. Ancora? Quindi, Parenzo, che ancora, vuoi dire? Ancora col busto di suo marito, mamma mia, ho capito, ma mi spiace. Ma perché a lei gli dispiace che io lo ricordo? Ma no, ma vuol dire tutte le volte il busto. Le dispiace? Io mi sono impegnato per ricercare il busto, ho capito, il busto di Almirante, d'accordo, il busto, d'accordo, mi dispiace. Ma sei impegnato a fare che cosa? A farlo no, ma voglio dire, nuovo? Donna Assunta, tutte le volte, il busto che hanno rubato, ho capito, mi dispiace. Ma mica l'hanno rubato da 10 anni, L'hanno rubato da 3 mesi. Vabbè, ok, e allora rifaremo, che cosa se vuole uno che nuovo, a fare, signora, se a fare uno il patrono nuovo. Dei ladri. Il che si mette a fare il padrone dei ladri, che difende i ladri, i delinquenti sì. Comuni che abbiamo, ha che non lasciano in pace manco i morti. Ha ragione non lei. Lasciano in pace, ho capito. Il busto ha ragione, il busto. Mi dispiace, ma lei si sia zitto, vada a passeggio. Un attimo solo, che ho la, un attimo solo che ho la borsa, torno subito, donna Assunta, perché adesso me la cavo io con Parenzo, ci penso io che vabbè. La Zanzara. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Parenzo, non ho capito che cos'hai su questa da dire ancora su questa storia del busto. No, voglio dire, con tutto il rispetto del signor Assunto Almirante, tutte le volte dice, ma hanno rubato il busto, il busto. No, io l'ho detto solo adesso a lei, non lo sto dicendo a nessuno. Ma tutte le volte, anche l'altra interviste. Volta dice, hanno rubato il busto, ho capito, il busto, ci dispiace, sono stati dei vandali. Dopodiché rifate questo busto, tra l'altro, posso dire che non mi stava molto, che politicamente a me il signor Almirante non stava simpaticissimo politicamente. Ma vabbè, ma se guardi il busto suo, no? Guardi. Il busto, non è che lei è costretta a guardare il busto di mio marito. Io eh? Se muoio non mi faccio fare nessun busto. Anche, comunque, ma certamente, ma ci vuole che ti preoccupi di lasciare il busto a lei. Ma scusa, però e devo dire veramente nessuno, che nessuno si preoccupa di lasciargli il busto. Appunto, no? Ma perché uno dovrebbe fare il busto di Parenzo, scusa? Ma cioè, certamente a lui fa non me ne frega il busto, ma se che a me non avrebbe neanche in mente. Se ma riesco miei a capire come lei se lo porta dietro. No, ma scusami, adesso voglio dire questo a donna assunta. Se alla mia fidanzata, ai miei genitori, ai miei figli venisse un domani in mente di farmi il busto, ma mi viene, ma io li disedredo tutti illico atque immediato, capito? Se mi fanno un busto a me, non voglio il busti. Dopodiché dico ma a lei, hanno rubato il che busto nessuno glielo farà mai. Nessuno si ricorderà di lei. È un'idea, perché viene... lei è un essere che non è mai esistito. No, ma io sono esistito, e come invece? Ma esisto ancora e vivrò, spero, a lungo. Dopodiché, mi dispiace. Questo che non lo può sapere, perché il buon Dio se lo sa. Politicamente, se può vivere a lungo, ma basta, mi ha peccato. Basta. Adesso se non la smette, attacco. Basta, basta. Ma perché che attacco? Ho detto, non faccia criticare... il capone. Se non lo è, non lo faccia. Ho detto che mi dispiace che l'hanno rubato, mi dispiace. A me, stia tranquillo che di te, di lei non me ne frega niente, guarda. Abbia la cortesia di non rompermi le scatole. Oh, bene. Ma ho detto che mi dispiace. Facciamo gli auguri a Marino, signora donna assunta. Sarà un buon sindaco, signor Marino. Io non lo so, non lo conosco, quindi non posso dire né bene né male. Però vabbè, non assunta. Io non lo conosco, scusi, mica vabbè. Posso dare dei miei consigli ad un individuo, oppure dare degli apprezzamenti ad un signore che non conosco. Vabbè, però se lo hanno votato vuol dire che lo merita. Secondo me era meglio di Alemanno. Non lo so, io non lo so. Saremo a vedere cosa farà. Sì, certo, non c'è, ma come mai lei l'altro giorno era una insomma, hanno detto c'era pure Fini alla presentazione di un libro, o sbaglio? Sì, certamente. E che andava a fare col suo nemico no, Fini? Ma io non è che sono andata per lui, sono andata sbagliando per Armaroli, che è un mio amico. Ah, ho capito. Ma e quindi siccome non mi ha detto di che cosa si trattava, né ho chiesto, perché ero stata fuori, né ho chiesto chi c'era e chi non c'era, si è trovata siccome con Fini. Mi ha invitato, mi ha mandato a prendere, io sono andata. Si è trovata con Fini? No, ma non me ne frega niente, Fini era come tutti gli altri. Ah, ho capito, no, ma manco gli ha rivolto la parola. Io dicevo. Guardo chi c'è e... chi mi saluta lo saluto, chi non mi saluta non li saluto. Quello certo, saluto. Giusto. E l'ha salutato Fini? Vi siete certamente, no? Ah, vi siete salutati, normale, no? No, ci siamo salutati con la testa, lui era al palco, io ero praticamente seduto in prima fila, quindi vi siete non fatti ci dovevamo dire nulla. No? Un cenno con la testa così, una cosa... Ma certo, un saluto un saluto normale, persone civili. Sì, però un saluto non così. Un saluto di quelli antichi, diciamo. No, ma nemmeno un saluto così formale, cioè un saluto proprio formale, una cosetta così, un cenno... Ma certamente, non poteva mica né alzarsi lui né alzarmi io posso essere una signora, non mi alzo mai per andare a salutare la gente. Poi figuriamoci Fini, poi. No. No, dico nessuno, per carità. Un abbraccio fortissimo, grazie donna Assunta. Grazie a lei, grazie. Ah, era tempo che non sappiamo nulla del, no? No, quella sarà poi signora, se mi dispiace che si arrabbia. Capisco. È proprio rincoglionito forte lei, eh? Filippo da Modena, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Buonasera. Sì, intanto sì. Complimenti per la trasmissione. Niente, io ho 21 anni e ho partecipato per la prima volta nella mia vita alle elezioni politiche. Non ho votato Grillo per una serie di motivi. Io rispetto la sua opinione assolutamente. Quando dice che, come dire, Beppe Grillo è comunque una persona importante. No, ma io non ho detto questo, perché... tra l'altro. Io non ho detto questo. Scusi, ha ragione. Ha detto che se non fosse per Grillo, tutti in quel Parlamento sarebbero dei signor nessuno. No, ma quelli dei 5 Stelle sarebbero niente, sì. Sarebbero polvere, non c'entra. Sì, sì. Cioè, poi uno può andare via facendo tutte le critiche del mondo, ma uno non può dire... non mi è piaciuto quel post e la causa dei nostri mali, eccetera. Allora, perché sono cosa, gli stessi, sono le stesse cose che hanno portato questi signori in Parlamento. Sono assolutamente d'accordo con lei, Cruciani. Però c'è una cosa da dire: cioè, Beppe Grillo comunica con questi benedetti post che sembra un ragazzino di 16 anni. Cioè, Beppe Grillo è la persona che in questo momento rappresenta il Movimento 5 Stelle. E allora? È un po' come la persona di Berlusconi nel PDL. Cioè, quando uno parla del Movimento 5 Stelle, parla di Beppe Grillo, cioè, quindi non si riferisce a Beppe Grillo. Quando Beppe Grillo fa certe affermazioni, attenzione, che io condivido sempre. No, quando fa certe affermazioni probabilmente esagera i toni, perché lui non è più in campagna elettorale. Beppe Grillo in questo momento è come dire, è un rappresentante politico, e anche se non si trova in Parlamento, comunque è come se lo fosse, perché alla fine è lui il vero leader. Vabbè, allora qual è il punto? Non ho... 5 Stelle. Dunque? Dunque no, io volevo dire che a questo punto Beppe Grillo farebbe bene e farebbe meglio ad iniziare a utilizzare un linguaggio forse un pochino più consono. Vabbè, i consigli di Filippo da Modena a Beppe Grillo. Angelo, è ancora lì, Angelo? Filippo, non ci scassano le chiudiune, Fili. Tutti attaccano Beppe Grillo, ma come sbaglia una mezza virgola sui primi giornali? Beppe Grillo ha fatto la ciambella, gli mancava il buco. Ecco. Alla prossima gli facciamo un buco grosso. Va bene? Allora, cioè, spiegami Angelo, spiegami questa cosa. Ha sbagliato, Giuseppe, ha sbagliato una cosa, li doveva scegliere lui, doveva mettere, noi ci siamo finiti a votarlo, doveva mettere anche lui la gente, doveva dire votate a Tizio, a Caio, non tutta questa democrazia che ha fatto lui, doveva scegliere lui la gente, doveva dire votate questo, questo. E ci doveva mettere la faccia, se sbagliavano ce la dovevamo prendere con lui. Va bene, Giuseppe, queste erano quattro canemurt, non tu, Giuseppe, ma la maggior parte, che non hanno visto mai una lira, hanno visto un addebito di soldi così, ma è normale, Giuseppe. Però la Parenzo, hai capito qual è il punto che dice Angelo? Quella, Giuseppe, c'è quella senatrice che balbetta, non so come si chiama, quella è lo specchio della sincerità, della purezza di una persona, si vede, Giuseppe. Si vede, e ti dico un'altra cosa, Giuseppe, e poi posso pure chiudere. Ti dico io come va a finire, Giuseppe, come va a finire? L'ottobre invernale. Io sto lavorando, Giuseppe, faccio l'esempio mio. Prendo i soldi con fatica, ma alla fine li prendo di ritardo. Mo che arriva novembre, Giuseppe, se io perdo il posto di lavoro, mo ti dico io quello che faccio, e mio figlio lo vedo che non gli posso né accendere i calorifere né niente. Noi autisti bloccheremo l'Italia, Giuseppe, dalla Sicilia a Bolzano, e noi siamo rotti, esagerato, siamo quello dai. Che... Giuseppe, non esagerare, quando io vedo mio figlio, ti dico, faccio una squadra, Giuseppe, 4-5 persone buone, al primo politico, a quello che abita più vicino a casa mia, vado. Un caro cash per ammazzato e gli tolgo tutto quello che c'ha dentro la casa. E lo faccio, Giuseppe, io non faccio parole. Per ora, Giuseppe, mi mantengo. Che pazzo, stai zitto, state zitto tu, sei agitato. Tu, Parenzo, tu farai la fine di quelli che hanno fatto la televisione greca. Tu sei una persona agitata. Hai visto oggi quelli della Grecia, lo mangiuno della televisione della Grecia, quelli che stavano a soldo, tutti a casa. Tu sei l'unico esempio di un giornalista che non vali talmente un cazzo, pare, che vieni pagato per essere insultato. Guardati allo specchio e sputati da solo, anzi sputi in cielo che te viene in faccia. Ecco l'intellettuale che ha parlato. Vergognati, vedi che non c'è da dire niente. Ecco, fai il curriculum, sei arrivato metti a dire alla radio, pagato per essere insultato. Poverino, e quando dovrai a fare il servizio sull'autostrada ti farò stuprare da Abdul pure. Ricordato, questa è una promessa. Ecco il paese reale. Ecco ti il paese farò reale. Stuprare. Stai tranquillo. Morto. Ecco il paese cane reale. Morto. Qua. Te lo voglio dire io. Ma perché il cane morto? Te lo voglio dire io. Giuseppe, io non cane morto. Giuseppe, è un cane morto. Giuseppe, non ha dignità. Giuseppe, perché Giuseppe. Non ha dignità? Giuseppe, lo schifo. Allora, Parenzo, stai zitto un attimo. Giuseppe. Negli uffici il capoccia si circonda di stronzi perché non assume quello buono perché ha paura. Beh, dipende, alcuni sì, altri no. Così no, Giuseppe, tutti, così è la radio. Un capoccia si circonda di stronzi, si capì? E lui è uno di quelli, Giuseppe. E fa credere che lui è un giornalista, ma non è un giornalista, Giuseppe, dottor Parenzo, dottore di Stichigiuni, ma che dottore, Giuseppe? Pagato per essere insultato, lo devi dire, io vengo pagato per essere insultato, è quello che so fare bene e ti viene dato noto. Io non so perché, David, adoro quest'uomo, Angelo da Bari, dalla provincia di Bari. Ti giuro che non era un troll, non era finto, era perché lui. Perché hai il gusto dell'orrido? No, ma perché dice alcune cose forti, forti. Il gusto dell'orrido che è un gusto. Ho un po' il gusto dell'orrido, sì, ho un po', devo dire la verità. In questo periodo ho un po' il gusto dell'orrido, che devo fare? È con noi Giuliano Ferrara, buonasera. Buonasera, a proposito di gusto dell'orrido. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Il collegamento non c'era, il collegamento non c'era. Allora, però Giuliano, io sostengo una cosa da questa sera. Sostengo che per coerenza Grillo ha fatto benissimo a cacciare o comunque a minacciare di cacciare questa senatrice. Questa senatrice non se ne può uscire oggi dicendo i post di Grillo sono un po' violenti, sono un po' così, allora ci fanno perdere voti eccetera, ma è, lei è lì perché i post di Grillo, quello che dice Grillo nei comizi, ma che l'ha portato, no, è per questo che è lì, o sbaglio? Sì, però scusa, non ho capito una cosa, i post di Grillo l'hanno portata lì, d'accordo, e allora lei gli deve riconoscenza, come si usa dire in questa seconda, terza o quarta repubblica del cavolo, gli deve riconoscenza, però se poi i post di Grillo invece la portano al 3% come in Sicilia, allora anche questo, diciamo, è a doppia mandata la faccenda, è a doppio senso. Vabbè, la strada, ho capito, però mi sembra perché Grillo gli garantisce la vittoria, lo sfondamento, arrestatevi tutti, siete circondati, arrendetevi. Allora tutti a dire Grillo, Grillo, rototatatà. Ma se poi Grillo continua a dire le sue cose e nessuno gli crede più, allora ovviamente le sue truppe si scompaginano. Capito, però le sue truppe sono paragule da questo punto di vista. Non è questione di paragule, questo è un fenomeno che avviene sempre. Cioè se io mi faccio generale, metto insieme un esercito e rilancio in una grande offensiva e poi finisco un caporetto e vengo processato e buttato fuori, arriva un altro. Ma tu dici che alla fine processeranno Grillo? No, non lo so, è quello che stanno più o meno facendo. Naturalmente adesso tutti sospettano che questi siano solo degli opportunisti che vogliono prendersi la diaria, ma questo perché siamo un paese molto malizioso. No, è così, è così. Pensare che siamo il paese di David Parenzo. Capito? No, David. Ma dico, anche fosse così sarebbe meraviglioso. Sarebbe stupendo che questi qui facessero una battaglia, finalmente ucciso il padre, cioè quel Guitto e il signor Casaleggio, quel duo lì, quel duo mefitico, quel duo mefitico lì, ucciso il duo mefitico. Vabbè, ma non dire queste cose davanti a Cruciani che lo fai arrabbiare. Dai. Sì, ma no, perché lui si è, vedi direttore, Cruciani è proprio fisicamente eccitato dal duo Casaleggio. Ma quando mai? Ma quando mai? Assolutamente. Tu sei proprio fisico, siccome dice qualche parolaccia. Ma i Gialli della Loggia, uno dei più fini intellettuali italiani, li ha votati, o almeno ha detto di averli votati dopo... figurati se non li posso votare io. Cioè, votare Cruciani, che è un grande anchorman. No, dai, ma figuriamoci. Anche gli intellettuali. Ma no. No, ma il punto è molto semplice, io non per me non è questione di pentimento, io ho votato, quando vado a votare voto in quel momento, due minuti dopo già non me ne frega niente, cioè sono la persona più aperta del mondo, per me il voto non è appartenenza, non è che c'ho un timbro in fronte che dopo mi accompagna, poi a un certo punto quando tocca tornare a votare, vabbè, farò un bilancio e dico, cioè, voglio... tu non ti vergogni di aver mandato in Parlamento una signora che vorrebbe introdurre la coppetta mestruale, se ti piace così, ma per carità di no, Dio, quello un po' se ci penso un po' se ci penso Casaleggio che teorizza che bisogna lavorare due ore al giorno come gli irochesi, questa roba qui hai mandato in Parlamento, questa roba qua, perché non lo sbatti fuori? Non ho capito. Lo so, dovrei però alla fine Sei di un liberalismo, lo so, eccessivo. Ma che succede con Grillo? Allora? Niente, robetta, cioè, non c'è niente. Grillo è, diciamo che mi è sempre più simpatico, più perde le elezioni più mi è simpatico. Ah, ecco. Ma sì, perché poi alla fine diciamo la verità, lì l'ho azzeccata, ne ho sbagliate tante nella mia vita. In quel caso sì, in questo caso. Un attore annoiato, è presente un attore annoiato, la gente non mi sta a sentire bene. Attore annoiato è una cosa che ha un significato molto preciso, cioè? È un'osservazione anche un po' letteraria. L'attore annoiato è un attore che non vuole più sbigliettare i botteghini, essere considerato di quelli che non li seppelliscono nei cimiteri, vuole diventare rispettabile. Lui ha pensato di diventare rispettabile dicendo vaffanculo alla politica italiana, molto fragile, molto debole in questi anni, molto incapace di autoriformarsi, eccetera. Ha chiesto i voti, li ha avuti, ma ovviamente non sa assolutamente che cosa fare. Si è pure messo in partnership con quello lì. Insomma, con Branduardi, dice. No, col Casaleggio. Branduardi, sì. Con quel nome di formaggio, Branduardi. Quindi ha scelto come partner uno molto più pazzo di lui e non poteva che capitargli questo. Speriamo che venga a patti con la sua stessa storia, cioè che capisca. A me piacerebbe moltissimo l'intervista di Grillo che dice adesso andatevene tutti a casa, mi avete seccato, sì, io ho la mia vita privata, il mio teatro, mi rimetto a fare l'attore. Fate il cazzo che volete, sì, voi state in Parlamento. Vaffanculo, sì. Il vaffanculo di Grillo prima o poi se lo beccano quelli che hanno creduto in lui e io lì il mio godimento arriverà a delle punte da Erasmus. Cioè, tu dici che Orgasmus, tu dici che il vero orgasmo sarà quando Grillo manda a fare in culo quelli che hanno detto avete votato elettori e deputati, elettori e deputati. Meraviglioso, meraviglioso. Certo, le conseguenze politiche saranno pessime perché poi Grillo buttano giù Berlusconi. Buttano giù Berlusconi in due secondi quelli. Ma no, che buttano giù Berlusconi, chi vuoi che lo butti giù? Berlusconi, dici di no. Tutti dicono nel PD, come è pazzesco. Senti, io ho passato tutta la campagna elettorale a dire sì, voterò Berlusconi, ma la Parma se la dovrebbe aggiudicare Monti e Berlusconi non riesco a capire come possa andare sopra il 15%. Ha preso gli stessi voti di Bersani, non so se mi spiego. Ma è pazzesco, ancora e pazzesco. Quindi vuol dire che noi che abbiamo un'idea razionale della politica dobbiamo ogni tanto stare zitti e lasciare che quelli che hanno il senso istintuale della cosa da fare prevalgano e facciano i fatti. Comunque è incredibile, la prima volta che vinco io voto Grillo e crolla tutto dopo due secondi. Io ho votato Grillo e Maroni, ti rendi conto o no? Che fino che ho fatto? Appunto, vabbè, appunto. Comunque, a parte questo, l'attore annoiato però mi ricorda qualcuno, anche tu una volta che eri annoiato ti sei presentato alle elezioni. È vero, è verissimo, ma non ero tanto annoiato. Beh, sì, eri annoiato un po', eri annoiato. Ero molto arrabbiato. Ma anche annoiato, volevi fare un'altra cosa. Annoiato sì, però io mi sono preso alle elezioni sulla piattaforma Non Uccidere. Non so sì, me lo ricordo, vabbè. Non è poco. Fu un disastro totale, dai. Disastro totale, d'accordo, ma che totale. Vuol dire? Perché siamo un paese di assassini. Ma perché, perché come siamo un paese di assassini? Certo siamo un paese di assassini. Ma no, dai, Giuliano, su. 135.000 bambini vengano liquidati ogni anno con un aspirapolvere, non è un paese. Comunque io vado pazzo quando una dice Gambaro, due punti, i toni di Grillo hanno penalizzato il movimento, ma io non ce la faccio a sentire queste cose, non c'è, i toni di Grillo hanno penalizzato il movimento, no, non lo ce capisco, la... lo capisco, non ce la faccio, i toni di Grillo ti hanno portato lì, tu sei nulla, sei polvere, sei zero, sei niente, io glielo vorrei dire in faccia, signora Gambaro, stasera poi la chiameremo, sei zero, cioè senza Grillo, questa signora qua che cosa può fare? Il travè alla regione Emilia Romagna, staccare i biglietti dentro l'autobus, che cosa può fare? Cioè non lo so che cosa può fare. Ma magari è un genio nella sua professione. Non lo so, sì, è? Scusami, non lo so. Ma che fa la Gambaro di Messina? Non so, la consulente, non so. Beh, intanto la Gambaro sta facendo una cosa nobilissima che è fare il culo a Grillo, che già questo mi fa eccitare, invece, da morire. Già questo invece le dà dignità e sta facendo una cosa, invece. E fa benissimo e si tenga tutta la diaria, tutti i soldi che le spettano, perché fa il deputato è un mestiere molto serio. Si tenga i soldi. Allora abbiamo la pubblicità. Questo Parenzo è veramente intollerabile, sì, è un eretico e un comunista. Io lo butterei fuori. Una cosa pazzesca, però io voglio capire qualcosa su cosa bolle in pentola nel PDL, perché qualcuno dice Berlusconi vuole rifare Forza Italia, non so, ogni tanto torna a galla questa roba di Forza Italia. Pubblicità, poi torniamo con Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, 800 24 00 24. Siamo qui. La Zanzara. È tornata intanto Micaela Biancofiore. Sentitela questa mattina da Gorà che dice il PDL rimanga così e si faccia Forza Italia. Biancofiore, mi sembra di capire che il PDL debba rimanere così, attenzione, paga, e che debba nascere anche Forza paga Italia più di quanto al PDL. Non paghi il PD, no, le larghe intese. Con Gerardo Greco che parlava sopra la Biancofiore, però abbiamo anche una battuta di Brunetta che non abbiamo mandato, che alcuni considerano volgare, belle solite cose, Parenzo. Brunetta che risponde a una giornalista. Brunetta è molto... non sopporta i giornalisti, vabbè. Lo è simpatico, conosce. Brunetta. Sì, molto. Ma c'ha questa cosa con i giornalisti, vabbè, ma chi se ne frega. Se ne frega. Sì. Come mai avete perso? E lei lo sa? Io non lo so. Beh, non avete fatto un po' di autocritica? Certamente tutte le notti, guardi, faccio autocritica pensando a lei. Tutte le notti faccio autocritica pensando a lei. Vabbè, siamo con Giuliano Ferrara, direttore del Foglio. Senti, Giuliano, io la mia idea è che a Berlusconi di queste elezioni locali non gliene possa fregare meno. Questa a me meno di lui ancora. E le elezioni locali sono le elezioni locali. Su, andiamo. Beh, andiamo, però... insomma, andiamo svelti, forza. Cioè, non a c'è... Roma Marino ha preso il 64% del 43% dei votanti. Vabbè. È stato miracolato dall'astensione, chi se ne frega, andrà in bicicletta per 4 anni e poi mollerà il suo mandato oppure verrà riconfermato. Il tuo amico Marino è sempre uguale. Tanto non cambia niente a Roma, pure io sono di questa idea, non cambia nulla. Ma il tuo amico Marino, mi ricordo facessi una campagna pazzesca su Marino, sul disco che era sulle... feci una campagna pazzesca, ebbi diciamo una notizia e la pubblicai senza neanche essere troppo, perché io non sono proprio esattamente come Travaglio, cerco di assomigliargli ma non proprio esattamente come Travaglio. La notizia era un po' imbarazzante per lui, poi dopo ha fatto causa. Vabbè, di coglioni. Pazzesca, non è proprio uno... No, Marino si è costruito la fama di essere un'eccellenza italiana. Sì. E io dico sempre una cosa che secondo me è un bel aforisma, sì. Le eccellenze sono mediocri. Cioè, quelle che sono... Le eccellenze sono mediocri. Cioè, non è vero... Ma in che senso, scusa? Nel senso specifico... grandissimo medico, eroe dei due mondi, da Pittsburgh a Palermo, sì. Eccetera, eccetera, eccetera, e poi medico con una mentalità e una caratura filosofica complessa che dialoga con i grandi problemi, credere e curare, dialoga con Martini, eccetera, eccetera, il risultato è una carriera politica così così. Vabbè, è diventato sindaco, beh, di Roma. Sindaco di Roma. Scusa. No, ridilo di nuovo, per favore, con quella alta compunta. È diventato sindaco di Roma? Beh, è diventato sindaco di Roma. Faccio l'elenco dei sindaci di Roma di cui non si ricorda neanche un barlume nella storia di questo paese. Su. Compreso Alemanno, diciamo. Ma insomma, Levanno, poveretto, è stato il primo sindaco fascista, almeno quella ce l'ha avuta. Come... questo non è, questo è vero. Però tu l'hai votato alla fine oppure non sei andato manco stavolta? Sì, l'ho votato a quattro mani, anche mia moglie, come pazzi, siamo andati al testaccio, isolati. Da chi? Credo, dagli altri elettori, non credo che al testaccio abbia preso. Anche se ho visto che Marino ha preso molti più voti nei quartieri del centro, lì è stato... un trionfo, perché come dice Michele Magni, una lettera al Foglio, dice: più sono a sinistra e più abito al centro. Questo è sempre stato così. Ambrosoli ha trionfato al centro a Milano. Scusate, ma insomma, Berlusconi alla fine che fa? Forza Italia, queste cose che si dicono, vuole rifare il partito come dice la Santanchè. Berlusconi vuole fare in modo che questo governo porti qualche risultato a casa, questo è il problema, perché se no noi fra sei mesi stiamo da capo a 12 dopo le elezioni tedesche con la speculazione internazionale sui titoli di Stato. Dici, certo, con l'euro che balla, questo è il problema, perché fra un po' la Federal Reserve americana e la Banca del Giappone, un po' per timore dell'inflazione, un po' perché le loro economie ripartono, ricominciano a tirare la cinghia, e noi che non abbiamo fatto la politica espansiva in Europa, mentre l'Inghilterra se n'è andata per i fatti suoi, e rischiamo di avere questa strana situazione per cui l'Italia perde quota e perde ricchezza e i tedeschi se la battono e insomma... Però Giuliano, scusate, ma secondo... Vogliamo finire in braccio ai tedeschi? Io no. Ma secondo te, alla fine, se Berlusconi viene condannato, cioè c'è l'interdizione, succede qualche casino là per Letta o no? Succede niente, Berlusconi non verrà condannato, c'è già tutto, c'è il lieto fine. Ma le tre giudichesse del Tribunale di Milano decreteranno che non c'è luogo a procedere. Dice. E la Corte Costituzionale dirà questa cosa che può sembrare strana, che se uno deve presiedere il Consiglio dei Ministri non può, secondo la legge del legittimo impedimento, andare a partecipare a una seduta del processo che lo riguarda. Vabbè, ma quello mica... tu dici all'epoca, quando ci fu questa cosa. E dunque si rifà tutto, secondo te? Insomma, a occhio, diciamo, insomma, a occhio è così, poi non lo so. Beh, appunto. Sì. Ma tu ti faresti curare da Marino? Giuliano? Che è successo? È caduta la linea? Che ha fatto? Alla parola Marino... Giuliano? Non posso rispondere, tu mi inviti a dire delle cose che non voglio dire. Perché? Scusa, non ho capito. È un medico. È un medico. Sì, ho capito, è un medico, sì, insomma... Non ti faresti mica curare da Alemanno, spero. Scusami. Alemanno che c'è? Alemanno mica fa il medico. No, dico, non si fa infatti, curare da Marino. Eri sparito, non capisco. Ma io non ho detto nulla, no? Ho detto né che mi farei curare né che non mi farei curare, perché non voglio dire delle cose poi antipatiche, c'è di mezzo la malattia, c'è di mezzo il nostro futuro. Io sono molto vecchio, sai. Ma perché ti sta sulle palle Marino? Io non lo capisco, perché ti sta così sulle palle, signor Marino? Non c'è un lo motivo. Sopportare. Non lo posso sopportare. Sai che vuol dire non potere sopportare un viso... un linguaggio del corpo, le parole messe una in fila all'altra, la biografia, il curriculum, il modo di essere cattolico, il modo di essere professionista e medico, non lo posso sopportare. Vuoi anche che ti dica il perché? Perché? Perché non lo posso sopportare. E vabbè, ci sarà un motivo in più, è solamente una cosa fisica, cioè quello che pensa lui di per il modo di essere cattolico, tu dici nello stesso tempo. Tante cose ti ho detto già. Ti ho detto che le eccellenze sono mediocri, che i cattolici mi piacciono sì, no, e non ipocriti. Che dei tanti gesuiti che ho conosciuto nella mia vita, Martini non mi piace e Francesco sì. Insomma, te ne ho dette di. Vabbè, comunque. E lui è con Martini. È il sindaco della tua città, comunque, dove abiti? Vabbè, comunque. Che vuol dire? Che intanto io sono il sindaco del primo municipio, che è un'altra cosa. Ciao Giuliano, a presto, ciao. Ciao. Mauro, provincia di Imperia, eccoci qui. Mauro. Eccomi, buonasera. Andiamo. Ecco, io sarei intervenuto sul tema di Almirante, ma siccome Bordighera si trova nei pressi della Costa Azzurra, sì, e io sono un esponente culturale della Francia, in successione alla volgarità del camionista, la sua e degli altri signori, lei compreso. Ma io non ho detto nessuna volgarità questa sera, scusi Mauro, guardi che lei si sbaglia, io non ho detto nessuna volgarità, c'è stato il camionista da Bari che è intervenuto. L'interruzione di una persona che parla è un atto di maleducazione. Io rinuncio, Mauro, all'intervento. Ma lei può rinunciare a quello, lei può rinunciare a quella che vuole, ma lei può rinunciare a quello che vuole e se ne vada a quel paese. Lei è la provincia di Imperia, no, anzi la provincia di Imperia no, anzi Rosario da Torino, per carità. Richiamate questo signore, richiamatemelo, Rosario da Torino. Pronto, buonasera, solo due cose velocissime. Prima, quella canzoncina esiste, voglio restare abbracciato con te, la cantava un certo Gio Centene negli anni 60. Ma qual è? Quella del gelato? Sì, esiste, voglio restare, è mezzanotte, anzi lo era, sì, Gio Centene anni 60. Prima cosa, secondo punto, sempre legato al tema del Pisapia, io ho un locale a Torino, serale, e conosco la realtà di Milano. Pisapia farebbe bene a pensare all'ordine pubblico, perché a Milano di notte ai navigli si spaccia droga, si vendono bibite ai ragazzi inferiori ai 18. Vabbè, adesso non ce ne frega niente a noi di Milano perché ci ascoltano in tutta Italia, però Rosario, problemi come questi esistevano prima anche sotto altre amministrazioni ed esistono anche adesso. Perfetto, non è questione però nessuno, di amministrazione, le posso assicurare, in questo caso concreto le cose le conosco molto bene, non è questione di amministrazione, esistevano prima ed esistono adesso, non è che ammazzano più gente da quando c'è Pisapia perché la gente dice beh c'è Pisapia, andiamo ad ammazzare qualcuno a Milano, è no, esattamente lo stesso, punto però, e basta. Però voglio dire, basta con queste stronzate. Non si è mai preoccupato di vietare il gelato a mezzanotte, cioè almeno. Ma questo è una cosa che poi è stata ridimensionata, non è così e comunque se l'avesse fatto è un errore. Grazie, buona serata. Pubblicità. La zanzara. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara. Siamo qui con Mino, provincia di Isernia. Buonasera. Ah sì, ma cambia pubblicità, perché la zanzara non è più velenosa, non è più pretenziosa, non ha niente di tutto questo. Sì. Con i tromboni che inviti, che hanno invidia del sindaco Marino che ha battuto Alemanno. Raccontagli a quel Ferrara che parlava prima che Alemanno ha preso 400.000 voti in meno rispetto all'elezione, alla ultima, dove concorreva Rutelli. Ne aveva preso 800.000. Glielo sta dicendo. Quindi lei, non si preoccupi. Sì, appunto, si faccia una ragione quel trombone. Sì. Che passa, che chiaramente parla male dei comunisti perché lui, con l'esponente che lo rappresenta, si deve sempre. Come fa? Come fa? Mino non ha parlato dei comunisti. Non ha parlato dei comunisti. Sì, ha detto una cosa, ma ha parlato malissimo di signore del 5 Stelle, e questo l'hai fatto pure tu. Sì. Non la conosci, perché stai a parlare male di questa signora che io non sto parlando male. Io non sto parlando male, ho detto semplicemente. Bene. Ma stai tranquillo, devi stare tranquillo, mi sembri un po' esagitato. Io sto tranquilli, no, mi sembri un po' esagitato. Ma figurati, io ho 63 anni, ne ho sentite di belle e di brutte. Sono figlio perché, di fascisti, che è ma sono un comunista anarchico. E chi se ne frega, Mino? Ma lo so. Figlio ma di fascista ma comunista anarchico, ma che vuol dire? Esattamente, sì. Ma cosa vuol dire? Che nell'altra parte della medaglia. Bah. Li conosco talmente bene che li riconosco anche senza guardarli. Vabbè, Fabrizio da Viterbo, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo dire al signor Ferrara di fare un fioretto, di mangiare poca carne. Praticamente la carne crea il problema per tutti gli italiani della convivenza. Sì. Loro stare insieme significa fare un fioretto, una rinuncia qualche volta, eliminando la carne. Praticamente, scusi, signor Cruciani, ma lei che ne sa che Ferrara mangia la carne, scusi? La mangiano tutti. Ma lei che ne sa? Come fa a saperlo? Ma sto dicendo che in Italia sono tutti mangiatori di carne. Sì, ma lei perché ci vuole chiamare alle 20:14, evidentemente, come dire, colpito da una... No, le spiego, per facilitare i contatti tra le persone, sì, in modo che si capiscono meglio, per creare, per, sì, fare delle cose insieme. Sì, Parenzo, vuoi rispondere tu, per favore? Tante. Sì, scusi. Io ho il massimo rispetto per il signor Parenzo, che, sì, lui è praticamente una vittima degli incarnati, in poche parole. Una vittima, cioè, gli incarnati degli incarnati, hanno, sì, bisogno di... Capito? No, non ho capito. Ci sono gli incarnati che hanno bisogno di sfogare la loro carne. Ah, degli indemoniati. Una persona. Allora le spiego, io sono un ex vegetariano. Sì. Ex vegetariano. Scusi, ma perché lei ci sta chiamando alle 20:15 per illustrarci la sua dieta, il fatto che è diventato vegetariano, la carne? A noi che cosa ce ne frega? Scusi. No, cioè lui dice. No, io lo faccio prima di tutto per difendere il signor Parenzo dagli attacchi. No, lui dice, ho capito, lui dice, i vegetariani, sì, sono meno inclini alla violenza rispetto ai carnivori. Ah, ho capito, cioè, sono credo più, di aver capito così. Sono più sereni, le dice sono lei. Sono più sereni. No, sono più sereni, riescono a fare le cose insieme. Quando c'è da creare un qualcosa da creare, da costruire, sì, un qualcosa... Sì. Bisogna essere, convivere insieme determinate ore, determinati giorni. Lo stare insieme, sì, è, diciamo, praticamente viene facilitato dall'assenza del mangiare della carne, che praticamente aiuta a vedere le cose realmente come stanno. Va le bene. Cose. Va bene, Fabrizio, la ringrazio. Abbiamo il traffico, torniamo subito. Intanto c'è una notizia bomba che viene fuori dal Vaticano. Lo stesso Papa Parenzo avrebbe detto che c'è una lobby gay, esiste una lobby gay, lo avrebbe detto parlando a ruota libera con alcuni esponenti della conferenza dei religiosi latinoamericani. Secondo Papa Francesco esisterebbe in Parlamento una lobby gay. A tra poco. La Zanzara. Naturalmente la lobby gay è in Vaticano, non in Parlamento, forse ho detto Parlamento, non lo so. Comunque, no, lobby gay in Vaticano, questa è l'accusa del Papa. Per te è tutto sempre facile, pure cucinare. Ancora la Gambaro, protagonista del giorno, Adele Gambaro, senatrice dei 5 Stelle, che attacca Grillo. Tutti ovviamente sono dalla sua parte, figuriamoci, la piccola Gambaro contro il gigante Grillo, sentiamola, attacco a Furnari e Labriola è violento e vergognoso. Ma io, anche se non condivido la loro scelta, trovo veramente incredibile che siano stati attaccati in quel modo così violento e anche un po' vergognoso. Quindi, pur non condividendo la loro scelta, sono assolutamente liberi di decidere dove stare. Anzi, gli è stato detto, tante volte ci è stato detto che se non condividiamo le linee del movimento dobbiamo uscire. Loro l'hanno fatto e per questo sono stati attaccati in modo molto violento. Poi mi punge pure in faccia, sotto i piedi, tra le dita. Siamo qui, Rosalba da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. No, volevo solo commentare un secondo la nostra senatrice Movimento 5 Stelle, Gambaro. Gambaro, perché? Lei dice no, Gambaro. No, Gambero, forse leggete male, perché torna indietro. Qual è il problema? Se vogliono uscire, si esce dal Parlamento e a testa alta. È giusto, è giustissimo. Se non si condividono più le idee del movimento, noi rispettiamo tutti. Bisogna uscire, noi del movimento, devono uscire i parlamentari del Movimento 5 Stelle, non devono andare a gruppo misto, devono andare fuori dal Parlamento e tornare cittadini come entrano un cittadini. Un attimo solo, Rosalba. Adesso altra cosa. Scusi, la interrompo solo un secondo. Come mai la senatrice, quando ha qualcosa da obiettare a Grillo, non va sul forum e scrive direttamente, come facciamo tutti, come noi degli attivisti Movimento 5 Stelle facciamo normalmente? Qual è il problema? Cioè, che dovrebbe perché fare, mica? Fare una mail, scrivere sul blog, commentare con gli attivisti. Invece di andare a Sky a parlare, dice lei? Beh, io immagino, cioè, perché una persona che diventa attivista e utilizza i mezzi che sono il blog non deve usarli poi per relazionarsi con Grillo o con chi per lui? Qual è il problema? Ma che ne so, qual è il problema? Lei. La visibilità? Vogliono visibilità? Ma no, uno va a fare un'intervista a una televisione. Fare le interviste, devo dire che è legittimo. Perfetto, è giusto. Però fare un'intervista è giustissimo. Però commentare con quelle parole chi comunque tu hai utilizzato come portavoce tuo del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, perché lo devi commentare così, senza averlo prima magari commentato privatamente? Perché se io magari l'ha fatto e non lo sappiamo, Rosalba, magari l'ha fatto e non lo sappiamo. Se l'ha fatto privatamente? No, magari ci ha parlato prima. Sul non blog non mi a me non risulta. Scusi, questa cosa prego, farlo privatamente. Lorenzo, la volevo salutare, ci siamo incontrati. E falla parlare un attimo, dai, Rosalba. Lorenzo, ci siamo incontrati a Pomezia, lei ha volutamente parlato con me, ma io ho... Che vuol dire volutamente parlare con lei? No, voleva parlare con me, perché... E perché lei non ha risposto? Volevo intervistarla per la Rai, sì, mi voleva intervistare, ma mi ha offerto una scatoletta di tonno, io ho soltanto... Certo. Chiesto di portarla in Parlamento perché abbiamo tanti parlamentari che vogliono mangiare e che giustamente secondo me andavano sfamati con quella scatoletta di tonno. Mi sembrava più giusto utilizzarla per sfamare i nostri parlamentari che sono molto affamati, non hanno ancora mangiato abbastanza. Mi sembra molto arrabbiata lei, signora Rosalba. No, perché arrabbiata? Beh, insomma, il tono è quello. Io non so, non sono assolutamente arrabbiata. Guardi, lo sa una cosa? Una cosa? Io non sono arrabbiata, io sono felice di tante cose, ma tante, sì, tante. Le posso... Perché... Prego, di cosa è felice? Di cosa è felice? Io? Del fatto che per esempio il movimento abbia abbassato, come dite voi, perso. Movimento 5 Stelle non ha perso. Sì, vabbè, Rosalba, adesso non faccia la cosa, le dico una cosa. Abbiamo eliminato i voti di protesta, diciamo così? Eliminato? Siamo rimasti, ci siamo contati, siamo gli attivisti. Ma lei pensa di stare a Radio Casaleggio per caso? Scusi? Questa non è Radio Casaleggio o Radio Beppe, questa è Radio 24, la Zanzara in particolare. Allora la informo, visto che non è Radio Casaleggio, che il suo caro amato, caro leader di partito, il signor Grillo, il comico prestato alla politica, ha scritto oggi un post di una violenza inaudita nei confronti della aprostata della fede o apostata della fede a seconda, la quale si è permessa, siccome parliamo di politica e non di cazzate, ma di politica, si è permessa di criticare il leader, il signor Grillo, si è permessa di fare una critica, dicendo abbiamo perso le elezioni, forse la colpa è del leader, si è permessa di fare questo, la signora cacciata, pedata nel sedere. Allora, nessuno l'ha cacciata, lo perché stalinista, se lei vuole resta lì. Lo stalinista, quindi, il tuo stalinista. Nessuno l'ha cacciata. Beh, insomma, nessuno l'ha cacciata, no, perché... Ma lei dove vive? Grillo l'ha invitata a uscire dal Movimento 5 Stelle. Ma lei lo farà? Uscirà dal Parlamento o andranno in gruppo misto? No, se esce va al gruppo misto, ora, sicuramente. Suo blog, Grillo scrive addirittura che uno vale niente. cioè dice che la senatrice Gambaro è niente, che l'accusa che faceva... No, ma questo non c'entra nulla, no, questo sì, non sì, c'entra sì, niente, Parenzo, sì, questo non c'entra nulla. Cioè, leggi il blog di Grillo. Sì, ma quello significa che uno non vale niente, invece tutti valgono... Una... Ho capito, no, ma no, non dice... Ma questa è la semplificazione. Inaudita. Ma lui dice che uno non vale nulla, ma non nel senso che la signora Gambaro politico, è niente. Dai, non è sì, questo, dai. Uno è... vale niente, lei è niente. Vabbè, d'accordo, questa è la semplificazione, ma va bene. Per le critiche che fa al suo leader, che è quello che gli ha fatto perdere l'elezione, allora se una critica politica porta ad essere cacciati... Sì, ma in questo caso sì, se dipende che critica... dipende che il senso che loro hanno, che lo ha fatto lui senza... Ma non è un partito normale, dai, su. Marco da Reggio Calabria, Marco. Marco, dica. Marco! Pronto, pronto, Cruciani, buonasera. Che stiamo facendo là? Sono in movimento, sono sempre in movimento al lavoro, sempre, al lavoro, come sì, al solito. Io poi sono sempre quello che armo bordello nella tua trasmissione, quindi... Non ho capito, scusi, non ho capito niente. Sono sempre quello che faccio succedere sempre un po' di confusione, butto sempre una bomba durante il programma. Ma non mi risulta, non mi ricordo, Marco, veramente... Sì, io sono quello che porto le scarpe con la punta di ferro, che prendo a calci nel culo i gay che si baciano nelle piazze davanti ai bambini. Vabbè, insomma, il solito cretino allora. Insomma, ecco. No, quale cretino? Quale cretino? Persona seria sono. No, sono un imbecille, mi pare un imbecille, no, comunque. No, è una persona comunque seria. Comunque stasera volevo semplicemente rispondere a Ferrara. Sì. Giuliano Ferrara. Sì. Perché si propone sempre per difendere l'indifendibile, sempre che c'ha sempre quella cosa in più per giustificare cose che non hanno giustificazione. Stasera non gli è andata a genio, forse, che, come si chiama, Ignazio Marino è diventato sindaco di Roma, forse i voti allora... erano quelli che erano. Però non sembrava molto contento di questa sua vittoria elettorale. E quando Parenzo gli ha chiesto, ma tu ti faresti curare da Ignazio Marino, lui ha detto no, non mi piace, no, così. Ma io ha detto che non risponde, ha detto che non risponde. E non risponde, non è una bella cosa, voglio dire, come se denigrasse la posizione di Ignazio Marino, che è un cattivo medico, forse, che cos'è? Vabbè, lei tragga le conclusioni che vuole trarre, poi... No, niente, io volevo dire, se non va bene Ignazio Marino, poi ci sarebbe un bel veterinario nel caso. Ah, vabbè. Un veterinario andrebbe proprio... Sarebbe perfetto, secondo lei. Sarebbe perfetto. Battutona, sì, sì. Abbiamo la borsa, torniamo subito. La zanzara. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go? Non mi moleste moschito. Ma vogliamo risentire Gentilini e il modo in cui ha risposto al telefono, credo al TG3, eh? Sentiamo Sì, pronto? Pronto? Pronto? Con chi parlo? Pronto, sono un elettore del 5 Stelle, ma ti sembra? Pronto? L'ho messo anche sul web, pronto? Ma chi è che chiama? Sono Franco, l'ho messo anche, l'ho scritto anche su www.peppegrillo.it. Ti volevo dire, ma perché avete cacciato la senatrice? La zanzara stronza. Che gira, che ronza. Ottavio da Catania, buonasera Ottavio. Sì, buonasera a lei, dottor Cruciani. Dica. Io volevo intervenire riguardo un pochino a difesa della senatrice Gambaro, sì, che esprime la sua idea, che io penso da diverso tempo, nei confronti di Beppe Grillo, che all'inizio magari poteva sembrare un movimento che potesse cambiare qualcosa, ma adesso in fin dei conti si è risolto per quello che è realmente una massa di fanatici, in pratica. Ma una massa di fanatici guidata da un fanatico. Lei prima diceva, io l'ho ascoltato poc'anzi, dove diceva la senatrice non sarebbe nessuno se non fosse per Beppe nessuno Grillo, politicamente, poi al suo mestiere, sì, al suo mestiere fa la consulente, qui ho un curriculum lungo della senatrice Gambaro, per carità, cioè fa no politicamente, ovviamente ha un master in diritto europeo, una laurea in relazioni internazionali, ha fatto la consulente per enti pubblici, piccole e medie imprese, eccetera eccetera, però politicamente non sarebbe nulla, diciamo la verità, questa è la sostanza. Ma anche penso Beppe Grillo non sarebbe nessuno se non ci fosse alla base il suo movimento, perché Beppe Grillo, il movimento in questo caso è sbagliata la cosa, perché il movimento è creato da Grillo, per cui questo è sbagliato. Detto questo, lo stesso discorso si può fare per la Camera, si può fare anche per altri deputati che sono... Ma dico, un movimento diventa tale, diventa comunque influente o non influente se non c'è alla base colui che lo segue. Cioè, se non ci fosse stata la Gambaro che sul territorio magari si fosse mossa anche per conto di Beppe Grillo, giusto o sbagliato che siano le direttive di Casaleggio e Beppe Grillo, comunque Beppe Grillo non avrebbe avuto quel famosissimo risultato alle nazionali. Fatto sta che le recenti elezioni, poi possiamo fare tutte le analisi che vogliamo, possiamo sentire Giuliano Ferrara che difende l'indifendibile, fatto sta che c'è stata una grandissima batosta del Movimento 5 Stelle, data proprio dal fatto della propria inconcludenza, non ultimo il fatto che la senatrice finalmente, cosa che dovrebbe fare in quanto tale, utilizzare i più comuni mezzi di informazione, nonché la radio, nonché la televisione . E non soltanto i forum per scrivere magari che ha perso il portafoglio e non sa che cosa deve fare. Cioè, io certe volte sento... Però Ottavio, mi scusi, io dico una cosa, no? Va sì. Benissimo tutto, io non dico che uno non deve parlare, anzi sono il primo che dice... che uno deve parlare tranquillamente, però evidentemente anche lì ci sono delle regole, cioè se uno va in televisione, in questo caso su Sky TG24, a sputtanare tra virgolette il proprio leader dicendogli che le sue parole così tremende sul Parlamento fanno perdere voti ai 5 Stelle eccetera eccetera, e tutto quello che abbiamo sentito e che abbiamo fatto sentire, evidentemente è un problema in quel partito lì, dove la comunicazione, dove i rapporti tra il modo in cui si parla ha un suo peso, punto e basta, o no? D'accordissimo questo qui, ma in fin dei conti sta, cioè in altri partiti la dialettica è più semplice, più normale, lì è tutto diverso, è una sorta di regime, allora quel non partito. È un regime, è che funziona in quel modo, non una che dice paghiamo i toni di Grillo, quando quello da tre giorni è impegnato in una sorta di, no, di redderazione col mondo dei giornalisti, col mondo, la stampa, con la comunicazione eccetera, è come dire Grillo sei un coglione. In fin dei conti è quello che forse molti alla base del Movimento 5 Stelle adesso stanno incominciando, ma non credo proprio, non credo proprio, non credo, no, va secondo bene. Me no, grazie. Giovanni da Napoli, buonasera Giovanni. Buonasera, ma sono tanti che credono che Grillo sia un gran coglione, io su questo contesto, e faccia una cosa Cruciale, dica a Parenzo di venire ogni tanto con la Costituzione, in modo che quando chiamano le talebane come quella di prima, che non fanno il bene dell'Italia, perché ma la chi? Politica... Rosalba, chi? Sì, la talebana pazza. Noi abbiamo bisogno di gente che sappia dialogare, che sappia capire, non di questi pazzi con la spada fiammeggiante, sono tragicomici. Ma che deve uscire dal Parlamento? Ma lo sa che il mandato elettorale non è imperativo? Proprio l'ABC, basta. Elettori italiani, svegliatevi, la politica è armonia, è capacità di mettersi d'accordo, perché siamo in mano a questi ciarlatani? E diciamo che Peppe Grillo è un coglione che non fa ridere da 20 anni. Diciamolo con tranquillità, dice banalità assurde che tutti gli italiani sanno. Vabbè, e adesso Giovanni, che vuol dire? Che vuol dire Cruciani, su, diciamolo, ma a lei Grillo fa ridere. Ma sì, quando fa il comico fa ridere, certo. Ma quella è comicità oppure è una vera realtà svelata in maniera urlata e grottesca? Ma insomma, sì. Giovanni, tanti in politica c'è anche questo. Ma sì, ma c'è in politica Enrico Letta, io sono un uomo di destra, un liberale, Enrico Letta era un personaggio serio, tranquillo, pacato, ragionevole, stimabile da destra a sinistra, ma e viene addirittura besteggiato, sbugiardato, infangato da questi quattro cialtroni che sono inascoltabili. Ma poi si può dire essere cittadino? Spiegate che cittadino è il citoyen, la rivoluzione francese, un senso di appartenenza, questi che appartenenza hanno? Ma da dove vengono? Giovanni, ma no, per carità, va benissimo, cioè quello che dice lei. Detto questo, stiamo parlando di un'altra cosa, non di Grillo in generale che è indecente eccetera, stiamo parlando dell'espulsione o quasi espulsione di una senatrice. Quella è assurda, quella è assurda, Certo, lei non troverà nessuno che dice che Berlusconi nel centrodestra dice strade atomiche, oppure che la Finocchiaro a volte sembra più comunista di Stalin. Però voglio dire, ci sono dei limiti, ci sono delle azioni che Berlusconi e Epifani non hanno mai fatto, non farebbero mai, non utilizzerebbero mai il linguaggio di Grillo. No, ma quello è chiaro. Quello è chiaro, ma però d'accordo Giovanni, non è che lei scopre l'acqua calda con quello, eh. Raffaele, provincia di Brindisi, grazie. Salve Cucciari, buonasera, io intervengo per parlare, diciamo, della questione ovviamente di Beppe Grillo. La questione può essere affrontata sotto varie sfaccettature, insomma. Va bene, affronti una di sfaccettature, oggi, Raffaele, su. Una su cui mi sembra, diciamo, abbastanza da trattare è il fatto che la perdita di consenso di Beppe Grillo è un fatto innegabile. Ed è dovuto al fatto che ogni giorno la macchina del fango mediatica, compresa anche quella vostra, si scaglia contro Beppe Grillo. Ma quale macchina del fango mediatica? Di che stai parlando? Mi lasci finire. Perché voi non parlate delle riunioni segrete del gruppo Bilderberg? Che appunto, ma segrete di che? Ma quali segrete? Se ci sono pure i nomi dei partecipanti. Ci sono pure i nomi dei partecipanti. Ma non si sa quello che si dice dentro. Invece se la parla allora, giorni delle riunioni di Grillo a Fiumicino, per esempio. Da quando riunione segreta di adesso Grillo è colpa dei giornalisti, Raffaele. Di chi è la colpa? È il giornalismo che crea il consenso, questo lo dovrebbe sapere meglio. E allora? E quindi potete parlare di cose che interessano alla gente. Cioè noi, lei ci deve dire... Ma il Movimento 5 Stelle che sta parlando di cose che interessano alla gente. Ma secondo lei è normale che un Presidente del Consiglio debba andare a una riunione segreta? Ma non c'è andato! Ignorante, non c'è andato, bestia. Ma c'è andato l'anno scorso, ma bestia lei, ma c'è andato l'anno scorso. E allora c'è andato l'anno scorso. E allora... dica anche a Cruciani, che fa parte della fondazione, oltretutto di Enrico Letta, sì, che questo di certo non va a favore dell'imparzialità dell'informazione. Ma lei è un malato di mente, lei lo sa che è malato. Ma, sì. ma lei mi tiene malato di mente. Ma perché non mi risponde sui fatti? Ma lei è, ma lei, non c'è lei, nessun fatto, questo è il punto. Lei è un falsario. Ma lei è un falsario. Ma lei, allora mi dica la verità. Io non lei, appartengo a nessuna fondazione, lei è un falsario. Ma non lei, infatti, io parlavo di Parenzo. Ma nemmeno Parenzo appartiene a una fondazione, anche se. Ma aver partecipato, a parte che non è un crimine. Sì, ma è un falsario, questo qua è un falsario. Ma secondo lei è normale che non si parli assolutamente in televisione, ma di cosa? In radio, delle riunioni del gruppo Bilderberg, di quello che si dice dentro? Ma quale gruppo Bilderberg? Anche Kennedy lo diceva, che non è concepibile un sistema democratico che si debbano fare riunioni segrete. Stia fermo lì, falsario, stia fermo lì. È con noi per parlare di quello che è successo oggi con il Vaticano, con il Papa che parla di lobby gay, Don Paolo Farinella, buonasera. Buonasera. Don Paolo, come sta? Diciamo, malpreso per i troppi impegni che ci sono oggi. Che è successo oggi? No, niente, è una serie di cose una dietro l'altra, infatti mi avete beccato per caso perché sto scendendo e c'è un gruppo che... La lasciamo subito. Scusi un attimo, Don Paolo, ma ha capito che quello che ha detto il Papa oggi? Ha parlato per la prima volta? Guarda, il Papa sta scoprendo l'acqua calda e sta dicendo, sta chiamando per nome le cose come stanno, perché sta usando il linguaggio evangelico che dice sì, che il vostro parlare sia sì sì, no no. Io ho appena dato alle stampe un libro in cui dico Cristo non abita più qui, sì, ed è il, mi riferisco al Vaticano, in sì, cui dico queste cose, cioè la lobby della corruzione che impera, sì, e la lobby gay. Sì, gay. Ma chi è il capo della lobby gay, Don Paolo? Com'è? Il capo di questa lobby gay, chi sarebbe? Vabbè, io questo non lo so, so soltanto per esempio che sono Se voi leggete, per esempio, sì, il libro di Abate, Sex and the Vatican, sì, scoprirete delle cose veramente, veramente da rizzare i capelli. Da rabbrividire, quello che, quello che a me dà fastidio non è che ci siano dei gay lì dentro. Quello che mi dà fastidio è il fatto che poi questi fanno dei documenti contro i gay. Come? Non ho capito. Capito, ah, che gli stessi fanno poi dei documenti contro i gay. Certo, sì, perché quando poi fanno sì, prendono le posizioni morali, questo contro questo contro quello. Ma quanti cardinali gay ci sono secondo lei, Don Paolo, oggi? Ma io penso che buona, diciamo la metà. Come la metà? La metà dove? Cioè lei dice la metà dei cardinali sono omosessuali? Diciamo la metà, cosa devo dire? No, è che ne so, dica lei. Se devo stare, perché non è che che c'è uno che si venga a dire io sono no, così. Però lo si vede dai comportamenti, lo si vede poi dalle, perché la maggior parte sono tutti travestiti, perché amano andare vestiti da donna, quindi. Ma dove amano andare vestiti da donna? Tutti i cardinali sono travestiti da donna, no? Da di vedere se vanno vestiti di rosso, vanno vestiti con la coda, con i cappelli, vanno vestiti. No, quello la divisa, poi c'hanno è l'abito. Tutto. No, quello d'accordo, però don Paolo. Ma è un prete, don Farinella. Cioè, sì, è un prete. Certo. Come sì che sono un prete? Perché non posso dire le cose come stanno, se le cose stanno così, perché devo dire delle bugie? No, cioè, scusi, ma no, è don Paolo, ma quanti si travestono da donna? Al di là del fatto che sono travestiti col cappello, con le cose, sì. Ci sono, scusa? Ci sono dei cardinali che si travestono da donna per fare delle feste, che ne so. Ma in questo libro di Abate se ne parla anche, che la è d'accordo, che fanno, cioè non so se sono cardinali o meno, comunque. Però lei è più sono addentro, delle testimonianze, diciamo, che dicono che si fanno non dentro proprio il Vaticano, ma comunque a ridosso ci sono delle cose abominevoli, insomma. Comunque questa lobby gay non la ma sorprende, non la cosa detta dal Papa non la sorprende. No, no, no, non mi sorprende, perché dice la verità, sta dicendo la verità. Scopre e l'acqua calda. E speriamo che veramente finalmente si venga a sapere e si sappia e vengano fuori e che si dica come stanno le cose, perché senza la verità non ci può essere giustizia, non ci può essere nemmeno. Ecco, ma il Papa rischia, secondo lei, per denunciare queste? Secondo me rischia, se io dico che appena comincerà a toccare alcuni argomenti, perché sta andando molto come se camminasse sulle uova, perché ogni tanto ogni giorno dà un messaggio nuovo. E ma la possono ammazzare, secondo lei? Appena comincerà a toccare problemi come lo IOR, eccetera, sì, eccetera, secondo me deve stare attento a prepararsi da mangiare da solo. Ah, dice lei, c'è la possibilità di avvelenarlo, sì. Lo potrebbero avvelenare? Ma o avvelenare oppure fare dell'altro, insomma. Cioè lo potrebbero fare fuori. Non è al sicuro lì dentro, perché già adesso mi sembra che sia abbastanza isolato. Ah, lei dice, Ma cioè, io non ho capito una cosa. Rischia la vita, no? Rischia la vita, questo è interessante, don Paolo, rischia la vita. Io penso di sì. Va bene, abbiamo il traffico, torniamo subito, poi rubiamo ancora un minuto, don Paolo, un minuto solo, traffico, torniamo subito. La Zanzara. La zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. La lobby gay in Vaticano, la denuncia di padre Francesco, sì, di Papa Francesco. Che Farinella se n'è andato, che ha fatto? Vabbè, se n'è andato, va. David? Se n'è andato Farinella. E mi dispiace, perché volevo chiedergli ancora alcune cose su questo. Sulla sicurezza del Papa, perché sono delle cose importanti, mi pare. Claudio da Roma, buonasera, Claudio. Buonasera. Tu è che lì. Claudio, pronto? Dica, pronto? Dica, dica, sì. Pronto? Allora, comunque è sempre più simpatico Parenzo, è un paraculo. Quello non c'è dubbio. È un paraculo. Allora, io avevo chiamato quando sentivo parlare a Ferrara, no? Sì. Che la cosa più drammatica è vedere un personaggio che rifiuta le sue origini, no? Lui c'ha tutta una famiglia dei comunisti e si è messo a criticare. Vabbè, ma il comunismo di Ferrara appartiene a un'epoca ormai lontana, Certo, non ce ne so più, dopo Berlinguer sono finiti. No, ma a parte questo, cioè, non è che insomma, ogni volta rievocare il passato comunista di Ferrara, vabbè, d'accordo. Vabbè, io volevo rievocare il passato comunista di Ferrara perché chiaramente è contro i propri parenti, no? Cioè io c'ho mio padre era un comunista, mio nonno era un personaggio, non ha mai fatto la tessera fascista e cambiava lavoro ogni 3 Vabbè, giorni. Allora? E poi volevo, oltre questo, volevo anche ricordare un fatto che a me mi sconvolse, perché io sono nonno c'ho un nipotino di 3 anni, no? Mi ricordo di Berlusconi quando giurò sulla testa del nipotino che lui con Milse, col caso Milse non c'entrava niente, no? E adesso non so quanti anni ha quel nipotino, ma sarà cresciuto sicuramente, e penso che al nonno non lo guarderà mai più in faccia. Poi? E poi in conclusione con questa signora che ha dato contro Peppe Grillo, è chiaro che Peppe Grillo, come se muove una foglia, sono tutti contro, la stampa, gli altri partiti, perché è l'unico che onestamente, e poi nessuno ne parla, ma le iniziative più belle sono state prese dai 5 Stelle in Parlamento, eh? Ricordiamoci tra cui quali? Il finanziamento, la possibilità di chi ha dei debiti con lo Stato di poterli nelle differenze ricrearsi in una situazione positiva, perché devo dare 100.000 euro allo Stato, lo Stato me ne dare 120.000. Vabbè, Claudio, la ringrazio, grazie. Luca da Genova, buonasera. Questo ci voleva fare l'elenco di tutti i provvedimenti presi dal 5 Stelle, o comunque i provvedimenti di legge presentati dal 5 Stelle, figuriamoci un po'. Luca. Ma pronto? Dica. Sì. Buonasera, io a parte che non ho capito il sistema democratico che intende quel signore di prima. Ma che ne quello so, comunista. No, se, manco io. Che anche mio padre, mio padre è di sinistra e lo capisco, lui è ferroviere in pensione. Non paga il biglietto del treno, prende 1.700.000 di pensione. Sì. Il mio dipendente prende 1.100. Dunque? Paga il biglietto del treno. Sì. Capito? No, io dico, come fa a essere un sistema democratico dove chi lavora nello Stato ha un sacco di agevolazioni? Chi lavora in ferrovia non paga biglietto. Vabbè, del scusi, treno. Scusi, adesso, tutta la adesso famiglia. Lei non ci può chi fare, lavora... a parte che le ferrovie ormai cioè, sono sì, sul... Aspetta, chi lavora all'Enel non paga la bolletta dell'Enel. Chi lavora in ospedale non paga ticket, non paga... A parte che non è vero la cosa che dice sull'Enel. Lavorava comunque in ospedale. Vabbè, così, Luca, sono senta, vero, adesso noi no... Sono vero. Luca! Io penso che chi è andato a votare ha solo l'interesse di andare a votare. Sì. E basta. Il problema dell'Italia... Sì. Guardi, io non voglio fare politica, io sono come lei, ho sì. votato a destra, anzi ero iscritto al PDS, ho votato a destra. Senta, ho votato io la Lega. Passo la linea al signor Antonio dalla provincia di Varese, perché non ne posso più di questi discorsi sconclusionati. Antonio dalla provincia di Varese. Buonasera signor Cruciani, le volevo dire una cosa in merito sì. a quelli me la dica, che me la dica. Sono, io la dico adesso, sia calmo, che devono, no perché devo che concludere, ha capito? C'ha ragione, concluda allora se vuole. No, no, dica. Quelli che stanno al Parlamento da Grillo, sì. devono ringraziare Grillo, no, devono ringraziare lei e tutti coloro che l'hanno votato. No, questi è Grillo, devono ringraziare Grillo. Ma che Grillo, chi aveva un po' di testa e ascoltava no. quello che diceva Grillo e come faceva Grillo il suo comportamento, avrebbero dovuto perfettamente capire quello che poi sarebbe successo. Annarella per concludere, cosa. no, devo concludere, cosa, Annarella, no. Alema, è finita la cuccagna. Hai capito? Dio un po' sti stronzi. Quanto è andata allora? Com'è andata? Che abbiamo vinto 16-0. Pure i grilli non vanno più manco le cavallette a Roma. È giusto? Oh, senti, ci senti con sto orecchie? E 15 municipi a Roma, tutti da sinistra. Becca e porta a casa. E poi torna più a per culo. Come si fa? Vedi la prima. Mo se passa alle vista. Ha visto che pure i leghisti sono andati a zero. I grillini hanno vinto a pomezza, sti cazzi. Più pezza che c'è. Radio 24. La passione. Si sente.